140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola e da Sanremo. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Anche questa settimana abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli con Radio 24, anche qui dal Festival di Sanremo. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il mio account @MartaCagnola o con l'hashtag cancelletto 140 caratteri. Come di consueto potete mandarci in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti e da Sanremo. Teatro Ariston, Sanremo. Il festival l'ha già vinto, ma confessa che guardarlo a casa lo annoia, anzi lo intristisce. Ora esce con il suo primo best, Francesco Renga. La tua bellezza è una canzone, secondo me, appunto bellissima, ma soprattutto è la canzone che in questo momento rappresenta la sintesi di tutte le esperienze artistiche che ho fatto in questi anni. E siccome è inserita in questo best, che è il primo best che è uscito oggi, insomma, della mia carriera, mi sembrava così opportuno portarlo, cantarla all'interno, insomma, di una kermesse, di uno spazio che è quello poi più adeguato, no? Presentare una canzone nuova. E quindi sono qui in gara, mi diverto. Ieri ero abbastanza teso, però è andata bene, c'erano un po' di problemini sul palco, però a me poi diverte Sanremo, non so perché, ma vederlo da casa mi intristisce. Anche i giornalisti. Best, il primo best, che tappa della carriera è? Ma in realtà io l'ho intitolato Fermo Immagine proprio perché credo che sia semplicemente un altro frame di questo film che ho cercato di fare, di questo racconto che ho fatto della mia vita, non solo della mia vita proprio, non solo artistico, in parole e musica. Quindi è un episodio, è un frame, un fermo immagine che racconta questo momento. Guardando indietro sono tantissime le canzoni che hanno significato qualche cosa di profondo per me e anche spero per il pubblico, e quindi era un modo anche per fare un po' il punto della situazione. Se la tua bellezza facevano gli album di fotografie scegliendole, esatto, incollandole, e questo è una cosa del genere. È la stessa cosa, sì, per me è la stessa cosa, anche perché poi a riascoltare una canzone, un singolo, anche datato, anche vecchio, per me è, come dire, non c'è nulla come una canzone che è in grado di catapultarti immediatamente in quel mondo, in quella situazione. Ha questo potere immenso, no? Di evocazione, e quindi è, secondo me, per me è molto emozionante, no? Anche perché ci sono poi episodi, soprattutto nel best, diciamo, su quello doppio, quello di 33 canzoni, perché ci sono due versioni, una deluxe e una normale. Quella deluxe, che contiene 33 episodi, è ancora più marcata questa cosa, proprio perché ci sono anche delle canzoni che uno magari non si aspetta. E la scelta a livello discografico di fare un album del genere? Ma io credo ancora nel CD, credo nel disco, credo nei progetti. Non sono di quelli disillusi, non sono nemmeno disincantato, però credo che il CD abbia ancora un mercato, voglio che lo abbia, credo che la gente si affezioni ancora non solo al singolo, alla canzone, alla quella che riesce ad ascoltare in radio, ma anche, insomma, a un progetto, a una storia. E quando io ero piccolo prendevo un disco, me lo portavo a casa, era come se mi portassi a casa un pezzo di storia, di vita di quell'artista. Io voglio che sia così anche per i miei lavori. Tornando a Sanremo, com'è cambiata? Perché tu ne hai vissuti vari e in epoche molto diverse. È cambiato che, secondo me, è migliorato parecchio Sanremo, anche qualitativamente, insomma, sicuramente c'è stata un'evoluzione. Poi quest'anno ci volevano andare tutti, quindi io sono andato in anni in cui era visto come la peste, nessuno ci voleva, Sanremo no. Quest'anno invece eravamo in tanti, quindi vuol dire che le cose sono andate, insomma, a migliorare, e soprattutto credo che si sia resi conto che ormai gli spazi veramente in cui esercitare la professione del cantante siano veramente ormai ristrettissimi, soprattutto in televisione pochissimi, e quindi è giusto riuscire, insomma, ad occuparli, non come ha fatto Celentano, ma magari in gara. Appunto, come ha fatto Celentano, perché c'è sempre questa paura che poi la musica non faccia ascolti. Sì, Sanremo invece è l'esempio eclatante proprio che non è così, però è una trasmissione, ovviamente, se parliamo di trasmissione televisiva, è una trasmissione che è costruita su quello, quindi è abbastanza naturale e lampante che poi la musica sia protagonista e funzioni, proprio perché chi lo guarda sa che sta guardando di solito, a parte ieri sera, una trasmissione, una competizione una gara di canzoni. Negli Stati Uniti si dice che vincere un Oscar può cambiare una vita. Vincere un Festival di Sanremo cambia qualcosa o no? Niente. Non cambia nulla, ti cambia che magari sei un po' più popolare quando vai a fare la spesa, insomma, ti riconosce qualche persona in più, però insomma, a me non ha cambiato nulla, ma non credo che cambi in realtà, non so, io poi ho una mia idea molto precisa del successo, del lavoro, della carriera. Le cose che cambiano la mia vita sono altre, diciamo. Quindi a questo punto sono curiosa di chiederti qual è la tua idea del successo. L'idea del successo è come dire, la realizzazione di un sogno, però immediatamente dopo ce n'è già un altro, insomma, che prende il posto di quello. E deve essere così per tutti. Per me significa fare canzoni, per qualcun altro significa, come dire, in un altro ambito, un altro lavoro, qualche cosa d'altro. Però credo che l'ambizione sia soprattutto quello. Hotel de Paris, Sanremo. Anche per lei non è stato il primo festival, ma dice che il palco dell'Ariston non è paragonabile a nulla. La più black di tutti, Nina Zilli. Non è il primo, ma è uguale, fondamentalmente, perché quel palco è sempre abbastanza forte, no? Insomma, è sempre un'emozione a sé stante, indipendente dai concerti, che ne ho fatti tantissimi. Non c'entra niente, indipendente dalle televisioni, cioè è proprio quella roba lì, no? Che uno arriva, è pietrificato, però poi di solito quando inizia a cantare passa tutto. Sanremo è Sanremo, no? E poi io l'ho fatto nei giovani e quindi mi piaceva l'idea di farlo veramente, no? Nei big. Poi è partito tutto da qui e quindi anche questo nuovo disco voglio che parta tutto da qui. Poi tra l'altro era pronto ovviamente anche un paio di mesi prima, nel senso sarei tranquillamente potuto uscire prima, però ho proprio fatto una scelta, no? Come si faceva una volta, cioè uno va a Sanremo, c'è il disco e esce tutto in una volta. E quindi eccomi. Hai detto Sanremo di tanti anni fa. Il di tanti anni fa è un po' il mood dell'album, già dalla copertina splendida che sembra una di quelle copertine delle cantanti della Motown in primo piano. Innanzitutto mi hanno fatto delle foto, sono stati bravissimi, perché io di solito sono abbastanza cagna, poi non riesco molto a posare. Beh, così bella. Vabbè, no, grazie, però mi irrigidisco un po' davanti alla macchina fotografica. E ovviamente sì, insomma, in questo disco ci sono tutti i miei riferimenti, poi le canzoni scrivo io, per cui diciamo che si sente sempre, no, quella roba lì, si sente sempre il soul, il rhythm and blues, l'amore anche per le poste, la musica giamaicana, le cose più underground, però è molto diverso dall'altro, si sente anche tutto il mio amore per l'Inghilterra, per i Clash, i Rolling Stones, quindi ci sono dei suoni addirittura distorti, ci sono delle chitarre distorte. E poi ho lavorato, appunto lavorando con Michele Canova, c'è un suono molto moderno, abbiamo trattato delle canzoni anche con dei loop, c'è anche in alcuni pezzi, ci sono tanto anche i miei anni 90, no? Quelli dei Fugees, quelli dei Murciba, quelli di quando si campionavano le cose funk, le cose soul, e poi ci si ricantava sopra un pezzo. Stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre, perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante e poi torna la fame. Si era diffusa la voce, che poi si è smentita, di una tua partecipazione a questo omaggio a Whitney Houston. Tu come ti saresti sentita a fare una cosa del genere? Ma guarda, me l'hanno chiesto e ci ho anche pensato, perché comunque Whitney Houston è, insomma, per la musica black, ovviamente io credo che loro abbiano pensato a me, appunto, per tutto l'amore, tutto il rompimento di, ecco, che io continuo a menare il torrone con la musica black. Però era una situazione troppo delicata, nel senso che, guarda, fosse morte di morta naturale, l'avrei fatto al volo, non ci avrei pensato un attimo. Però siccome è una morte che arriva dal dolore, dalla solitudine, nel 2012 poi, cioè, è veramente una vergogna. E così come non ho fatto niente, nonostante mi sia stato chiesto più volte per Amy Winehouse, ho deciso di non farlo neanche per Whitney Houston, perché è davvero una questione troppo delicata. Cioè, magari in un altro modo, in un altro tempo, lo farò e lo avrei fatto. Così fresco, subito, di giornata, non me la sono sentita, perché per me, appunto, ho ringraziato tantissimo per aver pensato a me, per avermelo chiesto, però non mi sento di cannibalizzare, non so, non vorrei passare per quella che cannibalizza la morte di qualcuno, insomma, una morte brutta. Per voltare pagina, per sorridere un po', Vivian Westwood? Sì, oggi sono vestita da Puff Daddy, come vedi, non so se hai visto il gorilla, dov'è, dove là. Ho visto anche una medaglietta col 13. La medaglietta col 13, pensa, me l'ha regalata mamma, perché il 13 era il mio numero quando sono nata, sai, il braccialetto dei bimbi, esatto. Beh. 13 è ancoretta, vedi, sì. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli, questa settimana a Sanremo. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora il festival nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Londra, Sanremo. Molti fan non hanno apprezzato, ma loro dicono: Sanremo è l'unica vetrina della musica in Italia, e si sono buttati. Marlene Kunz. Noi ci siamo divertiti molto, ci siamo sempre confrontati con tutte le persone qua che gravitano dai lavori, e soprattutto i musicisti concorrenti, come con delle persone con cui si sta condividendo un'esperienza. Non abbiamo mai intravisto nel nostro collega di turno un potenziale nemico da sconfiggere per la competizione. Invece devo dire che molti se la vivono molto così, con questo senso ansioso, e quindi vedi che ti danno qualcosa a livello di convenevole, però stanno molto sulle loro, cioè si rintanano, si concentrano. La concentrazione è giusta, ma lì la vedo un po' dal punto di vista morboso. Poi invece una cosa molto divertente che non mi aspettavo: stiamo rispondendo da una hall di un albergo sontuoso che sa di aristocrazia russa, eccetera, e mi fa sorridere veramente come spuntino fuori certi elementi eccentrici che vengono a Sanremo e mi dicono che non li si vede da nessuna parte, e quindi vengono solo qua nell'occasione sanremese. Quindi li si immagina congelati in una camera iperbarica per 350 giorni all'anno e spuntano a Sanremo, e mi dico: ma a Sanremo viene a fare l'eccentrico, ma vai da qualche altra parte. E quindi un esperimento sociologico per voi, ma lo è stato anche un po' per i vostri fan. Hanno smesso le voci di "oddio, i Marlene Kunz a Sanremo" oppure no? Ci stiamo proibendo di andare su internet, Facebook, quindi non sappiamo nulla. In realtà vogliamo stare in questa bolla di serenità e tranquillità. Vogliamo divertirci, se andiamo lì dentro poi ci incupiamo. Sanremo come unica vetrina della musica in Italia, sì. E questo è un problema? Sì, è un peccato, sì. Culturalmente questa gente che borbotta dovrebbe rendersi conto di quello, ma questa gente borbotta volendo che tu nemmeno ti promuova, invece qualsiasi gruppo al mondo desidera promuoversi, no? Se tu vai, vedi il Letterman Show in America, tutti vanno a promuoversi, dai Radiohead, dai Sonic Youth, a Nick Cave, ai Grizzly Bear, ai Black Keys, ai Wild Beasts. Tutto il mondo dell'indie va a promuoversi davanti a milionate di telespettatori, e non è colpa dei Marlene Kunz se in Italia non esiste il Letterman Show, non è colpa nostra, e non è nemmeno colpa nostra se in Italia i gruppi italiani rock non vengono invitati al Letterman. Non è colpa nostra perché i gruppi italiani rock non sono assolutamente considerati. E il malizioso qui direbbe: sì, ma voi fate cagare. Invece no, non è vero, perché tutti i gruppi stranieri con cui noi collaboriamo ci fanno tutti i complimenti per come noi After Hours siamo gruppi fighi, che suonano da fighi, eccetera. Quindi è un problema culturale di questi poveri ragazzi dell'underground che stiano a rimestare per conto loro. Let's do it. Adesso esce una sorta di collection, però voi avete in mente un altro disco che però non era pronto per Sanremo, è così? Sì, è vero. Noi l'anno scorso stavamo lavorando a questo disco nuovo di inediti, di cui abbiamo diciamo pronte tantissime idee, ma che sono ancora in fase embrionale, quindi riprenderemo a lavorarci nelle prossime settimane e contiamo di completare il lavoro per fine anno. Hotel Royal, Sanremo. Tutti lo chiamano Pupo, a Sanremo ha fatto il matto con Celentano, ma questa volta ha deciso di scrivere un thriller, La Confessione. Enzo Ghinazzi. Si dice Enzo Ghinazzi, anche se mi ricordo una volta che in Sicilia, quando venni a Sanremo io nel 92, dissi a Pippo Baudo e a tutti quanti, da oggi io sono Enzo Ghinazzi. Infatti feci un disco intitolato La mia preghiera con Enzo Ghinazzi e partecipai con il nome Enzo Ghinazzi a Sanremo. Ecco, quindi dissi non mi voglio più chiamare Pupo, fu praticamente un flop pazzesco e sia La mia preghiera che il tentativo di cambiare nome e il flop fu dimostrato da un siciliano quando andai poi in maggio andai a fare una serata nella festa di piazza in Sicilia, questo non sapeva come chiamarmi perché non si ricordava Enzo Ghinazzi ma si ricordava che io avevo in qualche modo rinnegato il mio nome d'arte e disse mi scusi senza offesa la posso chiamare Pupo, quindi puoi chiamarmi anche Pupo. Com'è nata l'idea di scrivere un romanzo, peraltro ambientato a Sanremo? Beh, l'idea nasce dalla voglia di raccontare il dietro le quinte di mondi che conosco benissimo, come quello del gioco d'azzardo, e Sanremo ne è un emblema in Italia, insieme ad un altro paio di località dove ci sono i casinò, quindi gioco d'azzardo che attira individui loschi, personaggi di dubbia moralità e tutto il resto. Poi il Festival di Sanremo, che finché c'è stato un interesse economico alto e attirava intrallazzatori di tutti i generi, anche quello, e poi il mondo della televisione che se lo guardiamo a 360 gradi non è da meno, insomma. Quindi il romanzo mi ha dato l'opportunità di raccontare attraverso personaggi inventati che poi possono essere in un giochino facile di fantasia, di ricondurre chi è quello e chi è quell'altro, il romanzo mi ha concesso di parlare un po' più a ruota libera raccontando storie, però insomma io vorrei che all'ultimo sì la gente lo comprasse anche per la curiosità di fare il giochino, ma questo è vero, ma questo è falso, ma chi è quello, ma chi è quell'altro, ma poi all'ultimo vorrei che si innamorasse della storia con un finale davvero che è un gioiellino, un'ispirazione che ho avuto un po' come le tre note di Su di noi negli anni 80 che mi hanno cambiato la vita musicalmente, ecco qui è stata un po' un'ispirazione geniale. Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi, vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi, gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato, su di noi. Però c'è un certo amore per questo mondo di Sanremo, si legge un affetto, tu lo provi? Ma da parte mia c'è odio e amore, come tutte le cose che fanno parte della vita, che i sentimenti sono sempre così, anche l'amore stesso. Quindi io qua mi sento a casa mia, ma nella casa mia quella più inquietante. Questo è ad esempio, qui siamo all'Hotel Royal, dove si svolge anche perché la morte avviene qua, è nella suite 606 dell'Hotel Royal di Sanremo. Qua è la mia casa, la casa dissoluta, la casa in cui accadono, è la mia no man's land, la mia terra di nessuno, dove io comunque in qualche modo posso essere quello che quasi a volte specchiandomi interiormente mi vergogno di essere. E per il 140 caratteri di questa settimana dal Festival di Sanremo è tutto. Seguiteci sempre su Twitter seguendo il mio account @MartaCagnola o con il cancelletto 140 caratteri. Ci ritroviamo la prossima settimana.